Per mesi la regina visse nella certezza della morte di Biancaneve. Non si prendeva nemmeno più la pena di interrogare lo specchio, finché una sera, tardi, in assenza del re: "Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?" E lo specchio rispose: "Tu, mia regina, splendi come una stella, ma Biancaneve è ancora più bella." La faccia della regina si contorse dalla rabbia. Infuriata, chiese allo specchio dove potesse trovare Biancaneve. Custodita da un'allegra brigata, vive nel bosco, bellissima ed amata. La perfida regina si travestì da vecchia merciaia e si inoltrò nel bosco in cerca di Biancaneve. Non le ci volle molto per trovare la casetta. "Fili, nastri e merletti!" gridò bussando alla porta. "Fili, nastri e merletti!" "Buongiorno!" disse Biancaneve. "Avete qualcosa di carino da farmi vedere?" "Ho delle trine, del filo e dei nastri di tutti i colori dell'arcobaleno," rispose la finta merciaia. Biancaneve dimenticò del tutto l'avvertimento dei nani e fece entrare in casa la vecchia. "Bella fanciulla!" esclamò la regina. "Che brutto nastro ha il tuo corpetto! Lascia fare a me!" E tirò fuori un nastro scarlatto dalla sua cesta. Biancaneve non si mosse, aspettando che la vecchia le infilasse il nuovo nastro nel vestito. Ma la regina malvagia strinse i lacci sempre più forte, finché Biancaneve non ebbe più respiro e cadde svenuta. "E anche la tua bellezza è sistemata!" gracchiò la crudele regina e tornò trionfante al castello. "Siamo qui, Biancaneve!" chiamarono i nani imboccando il sentiero di casa, ma quella sera nessuno rispose. Quando la trovarono, Biancaneve era pallida come una morta. "Presto, dell'acqua fredda!" gridò il primo nano. "Aria, fatele aria!" esclamò il secondo. "Allentatele i lacci del corpetto!" ordinò il terzo. E quando infine tagliarono i lacci e l'aria poté fluire di nuovo nei suoi polmoni, Biancaneve si riprese. "Ora la regina sa che sei viva!" le dissero i nani. "Ricordati, non fare entrare nessuno!" "Devi fare più attenzione!" la ammonì il maggiore dei nani. "Chiudi la porta a chiave!" Naturalmente, la regina venne presto a sapere, per mezzo dello specchio, che Biancaneve non era morta. "Questa volta non ci saranno errori!" giurò a se stessa. Usando tutti i suoi poteri magici, preparò una mela speciale. Metà era verde e buona, l'altra metà era rossa e imbevuta di un veleno mortale. Travestita da contadina, bussò di nuovo alla porta della casetta. "Mele! Mele!" gridava. "Mele! Fresche appena colte!" Biancaneve sbirciò la contadina dalla finestra. "Per favore, vada via!" esclamò. "Non posso aprire la porta agli estranei." "Fai bene!" disse la regina, estraendo dal cesto la mela avvelenata. "Sei una ragazza molto bella e saggia. Eccoti una mela, te la regalo. Mangiala alla mia salute." La mela aveva un aspetto davvero invitante. Biancaneve ne assaggiò un boccone, naturalmente addentando la parte più rossa, e cadde morta. "Questa sì che è veramente la tua fine!" sghignazzò con cattiveria la regina e, compiaciuta per quello che aveva fatto, si affrettò a tornare al palazzo. Appena entrata in camera sua, interpellò lo specchio. "Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?" E lo specchio rispose: "Tu, mia regina, sei la più bella e rifulgi come una stella." Al cadere della notte, i nani tornarono dalla montagna. "Non respira più!" gridò il primo nano quando trovò Biancaneve. "Il suo cuore non batte più!" pianse il secondo. "È proprio morta!" gridò il terzo. "Come sarà vuota la nostra vita senza Biancaneve!" disse il quarto disperato, e gli altri erano così sconvolti che non potevano dire nemmeno una parola. vollero seppellirla nella terra fredda e scura e così costruirono una bara di cristallo per poterla guardare ancora. Poi incisero su una placca d'oro: qui giace Biancaneve, figlia di un re. Posero la bara in cima a una verde collina e due di loro facevano la guardia giorno e notte. Gli uccellini venivano a cantare intorno a Biancaneve, gli animali le si accucciavano accanto, gli scoiattoli, i conigli, i cerbiatti e gli altri animali del bosco. Biancaneve giacque nella sua bara per molti anni e i nani non la lasciarono mai sola. Per tutto quel tempo lei rimase bianca come la neve, rossa come il sangue e nera come l'ebano. Lentamente cresceva e si trasformava in una giovane donna, più bella di quanto non fosse mai stata. Un giorno un principe passò di lì e vide la bara con l'iscrizione dorata. «Mi piacerebbe portarla via con me», disse, ma i nani non vollero separarsi da lei. «Accettereste una ricompensa?» chiese il principe. «Biancaneve era per noi più preziosa di tutto l'oro del mondo», replicarono i nani. «Allora, per pietà, lasciate che io la baci almeno una volta», implorò il principe, «poiché se fosse stata viva io l'avrei amata più della vita stessa». I nani si consultarono e poi alla fine acconsentirono e aprirono la bara di cristallo. Ma nell'istante in cui le labbra del principe toccarono quelle di Biancaneve, il pezzo di mela avvelenata cadde dalla sua bocca ed essa aprì gli occhi. «Dove sono?» «Sei salva!» le disse il principe. Biancaneve lo guardò negli occhi e rimase affascinata. «I tuoi occhi hanno il colore del mare. I tuoi capelli sono dorati come il sole». Il principe era fuori di sé dalla gioia al vederla tornare alla vita. «Ti amo più di ogni cosa al mondo. Sposami e vieni con me nel regno di mio padre». Così Biancaneve disse addio ai sette nani che l'avevano amata tanto. Li ringraziò e promise loro che sarebbe andata spesso a trovarli. Poi se ne andò con il principe al castello del padre, dove fu preparata una grandiosa festa di matrimonio. Intanto la regina malvagia si stava pavoneggiando di fronte allo specchio. «Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?» Ma questa volta lo specchio scoppiò in una risataccia di scherno. «La tua odiosa faccia è nera e greve paragonata a quella di Biancaneve!» Strillò la regina e, afferrato lo specchio, lo scaraventò contro il davanzale della finestra mandandolo in mille pezzi. Una scheggia di vetro appuntita come una lama penetrò nel suo perfido cuore ed essa cadde morta tra i luccicanti resti dello specchio. E così non poté vedere Biancaneve, bella come lei non era mai stata, cavalcare al fianco di suo padre alla volta della cappella reale, dove il suo bel principe la attendeva.